Caro Gesù bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piacer, lascia una volta il cielo e vieni a giocare, a giocare con me. Lo sai, il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai però, se vieni, noi ci divertiremo anche senza balocchi. Vieni, bambin Gesù.